Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da tempo qui a Smart City siamo attenti ai tentativi sempre più numerosi e raffinati di trasformare un rifiuto, ciò che è sempre stato considerato tale, in una nuova materia prima. Intorno a questo paradigma, ovvero intorno alla chiusura del cerchio della sostenibilità in una logica cosiddetta di economia circolare, stanno nascendo nuove imprese e nuove filiere. E c'è molta ricerca, come quella di cui parliamo stasera, la quale ci porta verso luoghi che, tra l'altro, considerato che siamo a luglio, buona parte degli italiani conta di frequentare da qui a qualche settimana. Parliamo infatti del problema della posidonia, che si arena in quantitativi giganteschi su molte spiagge del paese e che grazie a un progetto, il progetto Medonia dell'Enea, ha trovato una possibile applicazione proprio nella realizzazione di arredi, diciamo così, e suppellettili da spiaggia. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, Sergio Chiappucci, ricercatore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea della Casaccia e responsabile scientifico del progetto Medonia. Buonasera Cappucci. Buonasera. Allora Cappucci, la posidonia è quell'alga che forma delle intere praterie subacquee che chiunque insomma abbia mai messo la testa sott'acqua conosce benissimo. Sono quei cespuglioni che crescono sul fondo e che hanno anche un'importante funzione ecologica e, mi corregga se sbaglio, di solito segnalano anche una buona qualità delle acque. Solo che in certi periodi dell'anno succede qualcosa per cui se ne depositano tonnellate, diciamo, sui litorali. È vero. È assolutamente vero e il motivo di questo è molto semplice. La posidonia non è un'alga, ma è una pianta marina. Essendo una pianta, ha delle radici che la tengono fissa sul fondo e delle foglie che ovviamente durante l'inverno vengono perdute e per effetto del moto ondoso, proprio delle correnti, si accumulano sul litorale. E questo materiale è fastidioso, alcuni non lo gradiscono per l'odore, ma sicuramente occupa spazio utile invece la balneazione al turismo, che è uno dei motori portanti della nostra economia. Ecco, quanto ce n'è di questa posidonia? È un problema quello degli accumuli che riguarda circa il 60% delle coste del Mediterraneo. Ecco, e voi come pensate appunto di riutilizzarla? Avete immaginato degli utilizzi? Esatto, abbiamo cercato di evitare il conferimento in discarica e abbiamo pensato a delle procedure proprio che possano riutilizzare questo materiale per favorire il turismo. Facciamo quindi qualche esempio. Creare degli imbottiti, dei cuscinoni su cui far adagiare comodamente i turisti, sì, sia sulla spiaggia sia sulle coste rocciose che oggi invece vengono quindi delle stuoie balneate. Imbottite, potremmo chiamarle così, dove, esatto, per cui sono comode anche su un terreno un pochettino dissestato, dei puff, cos'altro? Se vogliamo. E poi questi stessi imbottiti abbiamo sperimentato una tecnica per provare a facilitare la ripiantumazione proprio della posidonia sul fondale marino, perché a volte, soprattutto nelle piccole isole che sono isolate, bisogna far arrivare dei gasdotti, degli elettrodotti o l'acqua, quindi delle condotte sottomarine, e si rovina questa prateria, sì, quindi è utile anche conoscere e testare delle tecniche che possono aiutare quindi riuscite a ripiantare quella che è arrivata sulle spiagge? Sì. Abbiamo provato con questa procedura a raccoglierla dalle spiagge, sì, chiuderla in questi imbottiti, zavorrarli sul fondo, okay, per facilitare la ripiantumazione. Come se metteste giù un terreno di coltura, più ricco magari di sostanze o cose del genere. E cosa state facendo invece a Favignana? Stiamo provando diverse cose, stiamo realizzando e testando sul territorio proprio le stuoie, dei tappetini, degli schermi solari per gazebo, passerelle per camminamenti, cioè tutta una serie di oggetti che sono riempiti con le foglie della posidonia per rendere più fruibile proprio le coste rocciose e alcune spiagge. Okay, c'è una partecipazione degli stabilimenti balneari, sì, una partecipazione di alcuni sponsor, proprio aziende leader del settore, okay, del design, che si sono rese disponibili a creare dei primi prototipi. E questo è molto importante perché tutti questi progetti diventano, come dire, degli esercizi un po' inutili se non poi non si concretizzano in questo modo, no? Assolutamente, grazie alla collaborazione dell'Università, dell'Area Marina Protetta e del Comune siamo riusciti un pochino a mettere a sistema tutto quello che era stato iniziato in un progetto pluriannuale, multidisciplinare, proprio coordinato dal nostro direttore Roberto Morabito, e adesso su questo tema siamo pronti, diciamo, a provare dei primi prodotti quasi insomma, industriali. Industriali, quasi, quindi, insomma, pronti alla commercializzazione. Se ci sono, speriamo, imprese, questo è il messaggio, no? Se ci sono imprese che lavorano in quel settore e possono trovare di loro interesse questo tipo di oggetti, beh, devono chiamare l'Enea della Casaccia. Va bene, grazie, grazie Sergio Cappucci. Grazie, arrivederci. Va bene, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana.